Il terzo anello, ad alta voce. Luciano Virgilio legge La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth, traduzione di Laura Terreni. Per la forma, come scusa, e per acquietare mia madre, mi ero iscritto a giurisprudenza. Ma naturalmente non studiavo. Dinanzi a me si stendeva l'immensa vita, un prato smaltato di fiori, appena limitato da un orizzonte molto, molto lontano. Frequentavo l'allegra, anzi sfrenata, compagnia di giovani aristocratici, l'ambiente che dopo quello degli artisti più mi era caro nel vecchio impero. Ne condividevo la scettica leggerezza, la malinconica presunzione, la colpevole ignavia, l'arrogante dissipazione, tutti sintomi della rovina di cui ancora non intuivamo l'approssimarsi. Sopra i bicchieri dai quali spavaldamente bevevamo, la morte invisibile incrociava già le sue mani ossute. Si imprecava allegramente, si bestemmiava finanche senza scrupolo. Vecchio e solitario, lontano e per così dire pietrificato, pure vicino a tutti noi e onnipresente nel grande e variopinto impero, viveva e regnava il vecchio imperatore Francesco Giuseppe. Forse negli strati profondi delle nostre anime erano sopite quelle certezze che la gente chiama presentimenti. Prima fra tutte la certezza che il vecchio imperatore moriva. Ogni giorno in più di vita era un altro passo verso la morte. E insieme con lui moriva la monarchia. Non tanto la nostra patria, quanto il nostro impero, qualcosa di più grande, più vasto, più nobile che non una semplice patria. Dai nostri cuori grevi nascevano le battute spensierate, dalla sensazione di essere votati alla morte, un folle desiderio di qualsiasi affermazione di vita, di balli, feste popolari, ragazze, pranzi, gite, stravaganze d'ogni genere, scappatelle assurde, di ironia suicida, di critica feroce, del prater, della ruota gigante, del teatro delle marionette, di mascherate, di balletti, di frivoli giochi amorosi nei palchi discreti dell'opera di corte, di manovre militari a cui ci si sottraeva e finanche di quelle malattie che l'amore talvolta ci largiva. Si capirà come l'arrivo inaspettato di mio cugino mi capitasse a proposito. Nessuno dei miei frivoli amici aveva un cugino come il mio, un panciotto come il mio, una catena d'orologio come la mia, né come me un così stretto legame con la terra d'origine della favolosa Sipolia in Slovenia, la patria dell'allora non ancora dimenticato e non di meno già leggendario eroe di Solferino. Quella sera passai a prendere mio cugino. La sua giacca lucida di raso fece un'enorme impressione su tutti i miei amici. Barbugliò, un tedesco incomprensibile, non fece che ridere coi suoi denti forti e smaglianti, lasciò che pagassero per lui, promise di comprare in Slovenia altri panciotti e catene per i miei amici e accettò di buon grado degli acconti, poiché tutti mi invidiavano panciotto, catena e orologio. Tutti, se avessero potuto, mi avrebbero comprato il cugino bell'intero, la mia parentela e la mia Sipolia. Mio cugino promise di ritornare in autunno. Lo accompagnammo tutti alla stazione e gli acquistai un biglietto di seconda classe. Lo prese, andò agli sportelli e gli riuscì di cambiarlo con un biglietto di terza. Da là ci fece ancora un cenno con la mano e a noi tutti si spezzò il cuore quando il treno lasciò con fracasso la stazione, poiché amavamo la mestizia con la stessa leggerezza con cui amavamo il piacere. Thank you. Ancora per un paio di giorni, nella nostra gaia brigata, si parlò di mio cugino Josef Branko. Poi lo dimenticammo. C'erano da discutere e da apprezzare le follie della nostra vita quotidiana. Solo in estate avanzata, verso il 20 di agosto, ricevetti da Josef Branko una lettera in lingua slovena che quella sera stessa tradussi ai miei amici. Descriveva i festeggiamenti per il compleanno dell'imperatore a Sipoglie, i festeggiamenti del circolo dei veterani. Quanto a lui, era un riservista ancora troppo giovane per far parte dei veterani. Tuttavia, era sfilato con loro nel Valvise, dove ogni 18 agosto essi organizzavano una festa popolare, per il semplice motivo che nessuno di quei vecchi era ancora abbastanza in forza da portare il grosso timpano. C'erano 5 suonatori di corno e 3 clarinettisti. Ma che cos'è una banda senza timpano? Straordinari, disse il giovane Festetic, questi sloveni! Gli ungheresi li privano dei diritti nazionali più elementari e loro si difendono, di tanto in tanto persino si ribellano, o perlomeno pare che si ribellino, però festeggiano il compleanno del re. In questa monarchia, replicò il conte Choinitsky, era il più vecchio fra noi, niente è straordinario. A parte i nostri governanti cretini, gli piacevano le espressioni forti. È certo che neanche all'apparenza niente vi sarebbe di straordinario. Con questo voglio dire che il cosiddetto straordinario per l'Austria-Ungheria è l'ovvio. Sicuro, sono gli sloveni, i galiziani polacchi e ruteni, gli ebrei col cafetano di Borislav, i mercanti di cavalli della Bartska, i musulmani di Sarajevo, i caldarostai di Mostar che cantano il Dio conservi. Ma gli studenti tedeschi di Bern e di Eger, i dentisti, i farmacisti, aiutanti parrucchieri, i fotografi d'arte di Linz, Graz, Knitterfeld, i valigiani gozzuti delle Alpi, loro cantano tutti la guardia al Reno. Questa fedeltà nibelungica manderà in rovina l'Austria, signori miei. L'anima dell'Austria non è il centro, ma la periferia. L'Austria non bisogna cercarla nelle Alpi, dove hanno camosce, stelle alpine, genziana, ma neppure un'idea di che cosa sia l'aquila bicipite. La sostanza dell'Austria viene nutrita e incessantemente rigenerata dai territori della corona. Il barone Kovács, di recente nobiltà militare, ungherese di nazionalità, si mise il monocolo. Come era sempre sua abitudine quando credeva di dover dire qualche cosa di particolarmente importante. Parlava il tedesco duro e cantilenato degli ungheresi, non tanto per necessità, quanto per civetteria e per protesta. La faccia emaciata che faceva pensare al pane malcotto troppo poco lievitato gli si arrossò in modo violento e innaturale. Gli ungheresi sono quelli che più soffrono di questa duplice monarchia, disse. Era il suo credo. E immutabile era l'ordine delle parole in questa frase. L'invariabile risposta di Choinitsky non poté mancare. Ripeté come al solito. Gli ungheresi, caro Kovács, opprimono niente meno che i seguenti popoli. Slovacchi, rumeni, croati, serbi, ruteni, bosniaci, svevi della Bakska e sassoni transilvani. Enumerava i popoli sulle dita aperte delle sue belle mani snelle e forti. Kovacs posò il monocolo sul tavolo. Le parole di Chojnitskij sembravano non raggiungerlo affatto. «So quel che so», pensava, come sempre. Qualche volta lo diceva anche. Per il resto, era un giovane innocuo, a momenti fin anche buono. Ma io non lo potevo soffrire. Eppure, onestamente, mi sforzavo di provare per lui un sentimento cordiale, anzi, soffrivo di non poterlo soffrire. E c'era il suo bravo motivo. Ero innamorato della sorella di Kovacs. Elisabeth si chiamava. Aveva 19 anni. Lottai a lungo invano contro questo amore. Non tanto perché mi credessi in pericolo, ma perché temevo il tacito scherno dei miei scettici amici. Era di moda allora, poco prima della Grande Guerra, una beffarda arroganza, una fatua professione di cosiddetto decadentismo, di stanchezza immensa, mezzo simulata, e di noia senza motivo. In questa atmosfera passai i miei anni migliori. In questa atmosfera i sentimenti avevano a malapena posto. Le passioni erano rigorosamente vietate. I miei amici avevano piccole, anzi insignificanti liaisons, donne che si deponevano, talvolta persino si prestavano, come pastrani. Donne che si dimenticavano come ombrelli o si abbandonavano di proposito come fagotti molesti a cui si evita di guardare per paura che ci possano essere riconsegnati. Nella compagnia che io frequentavo, l'amore era considerato un'aberrazione. Un fidanzamento era all'incirca come un'apoplessia e un matrimonio una malattia incurabile. Eravamo giovani. Pensavamo al matrimonio come a una inevitabile conseguenza della vita, ma né più né meno di come si pensa a una sclerosi che probabilmente fra 20 o 30 anni non mancherà di sopraggiungere. Avrei potuto trovare più di un'occasione per restare solo con la ragazza. Per quanto a quei tempi non rientrasse ancora nella normalità il fatto che giovani donne restassero più di un'ora sole in compagnia di giovanotti senza un adeguato, anzi legittimo pretesto. Approfittavo solo di qualcuna di queste occasioni. A sfruttarle tutte mi vergognavo, come ho detto, dei miei amici. Anzi, mettevo una cura scrupolosa perché nulla si notasse del mio sentimento. E spesso temevo che l'uno o l'altro del mio giro ne sapesse già qualcosa, che forse in questa o quell'occasione mi fossi già tradito. Se qualche volta capitavo inaspettato fra i miei amici, credevo di dover dedurre dal loro improvviso silenzio che in quel momento, un attimo prima del mio arrivo, stessero parlando del mio amore per Elisabeth Kovacs. E mi rabbuiavo. Quasi fossi stato colto in flagrante con le mani nel sacco, quasi si fosse scoperta in me una qualche segreta e infamante debolezza. Ma nelle poche ore in cui restavo solo con Elisabeth, mi pareva di avvertire quanto fosse assurdo e finanche sacrilego lo scherno dei miei amici, il loro scetticismo e il loro arrogante decadentismo. Allo stesso tempo, però, mi rimordeva, per dir così, la coscienza, quasi avessi da rimproverarmi un tradimento dei sacri principi dei miei amici. Così conducevo, in un certo senso, una doppia vita, e ciò non mi piaceva affatto. Thank you. Elisabeth allora era bella, soave e tenera e indubbiamente ben disposta nei miei confronti. Ogni suo gesto, ogni sua mossa, la più piccola, la più insignificante, mi turbava profondamente, perché ero convinto che ogni movimento della sua mano, ogni cenno del capo, ogni dondolare del piede, una lisciatina alla veste, un impercettibile sollevarsi della veletta, quel bagnarsi appena le labbra alla tazzina del caffè, un fiore inatteso sul vestito, lo sfilarsi di un guanto, tradissero un chiaro, immediato rapporto con me. E con me soltanto. Sì, da più di un indizio che a quell'epoca poteva senz'altro essere ascritto al numero delle cosiddette avance ardite, credevo di dover dedurre con qualche diritto che la tenerezza con cui mi guardava, il gesto apparentemente involontario e casualissimo con cui la sua mano sfiorava il dorso della mia o le mie spalle, fossero promesse vincolanti, promesse di ben più grandi, squisite tenerezze che ancora mi sarei dovuto aspettare se solo avessi voluto, vigilie di feste della cui puntualità non c'era più da dubitare. Aveva una voce profonda e morbida. Io non posso soffrire le voci femminili acute e stridule. Il suo parlare mi ricordava una sorta di smorzato tubare, contenuto, casto e non di meno torrido, un mormorare di fonti sotterranee, il lontano rullare di treni lontani che talvolta si sente nelle notti insonni, e la più banale delle sue parole acquistava per me, grazie a questa profondità del timbro col quale veniva pronunciata, la pienezza, il vigore espressivo di un remoto linguaggio primitivo, non esattamente comprensibile, ma certo chiaramente intuibile, scomparso, forse una volta vagamente inteso in sogno. Se non ero con lei, se tornavo nella compagnia degli amici, sul primo momento ero tentato di raccontare loro di Elisabeth, anzi, perfino di abbandonarmi alle fantasticherie. Ma alla vista dei loro volti stanchi, molli e beffardi, nella loro visibile e addirittura sfacciata smania di mordacità di cui non solo temevo di diventare vittima, ma di cui desideravo essere unanimemente riconosciuto complice, piombavo subito in uno sciocco, muto pudore, per poi cadere, dopo neanche due minuti, in quell'arrogante decadentismo di cui noi tutti eravamo i figli perduti e superbi. In certi momenti pensavo di fare di mia madre la mia confidente. Ma allora ero ancora giovane. E poiché ero così giovane, la ritenevo incapace di capire le mie preoccupazioni. Anche il rapporto che intrattenevo con mia madre non era infatti un rapporto autentico e spontaneo, bensì il misero tentativo di imitare il rapporto che i giovanotti di allora avevano con le loro madri. Ai loro occhi, esse non erano affatto madri vere e proprie, ma una sorta di macchine incubatrici alle quali essi dovevano la loro maturità e la loro vita. Nel migliore dei casi, qualcosa di simile a un paesaggio natale dove casualmente si è venuti al mondo e a cui non si dedica più nient'altro che un pensiero e un po' di commozione. Io invece, per tutta la mia vita, ho avuto quasi un sacro timore di mia madre. Soltanto era un sentimento che soffocavo. Luciano Virgilio ha letto La cripta dei Cappuccini di Joseph Roth. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Giovanni Pallanti. A cura di Fabiana Carobolante.